Mezzogiorno di Simone Spezia. Rischi per otto banche con il no al referendum, scrive il Financial Times. Giù i mercati, Monte dei Paschi perde oltre il 10%. Firme false, nuovi indagati nei 5 Stelle e c'è un'altra parlamentare. La deputata Mannino intanto sceglie di non rispondere ai magistrati. In panne una parte della rete di Deutsche Telekom, giù internet e cellulari per centinaia di migliaia a Berlino, Amburgo e Francoforte. Siria, i soldati di Assad controllerebbero gran parte dei quartieri est della città di Aleppo, quasi 10.000 i civili fuggiti da quelle aree. Polemica sul nuovo regolamento della città di Trieste, multe non solo a chi chiede l'elemosina ma anche a chi la fa. Calcio, la Juve inciampa sul Genoa, Roma e Milano a 4 punti, Atalanta e Lazio a 5 di distanza, stasera Napoli, Sassuolo. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati all'Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, al microfono sempre Simone Spezia, appunto, Effetto Giorno @radio24.it se ci volete scrivere, e oppure il 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. In apertura dunque parliamo di mercati collegati al referendum, nel giorno nel quale il Financial Times mette in guardia dal rischio che con il no referendum 8 banche italiane potrebbero saltare, precipitano gli istituti di credito, ma soprattutto precipita a Monte dei Paschi. Deborah Rosciani, ciao, buongiorno. Buongiorno anche a voi. Allora, in realtà non capiamo bene se la peggior notizia sia questo commento del Financial Times oppure il difficoltoso aumento di capitale che è necessario a Monte dei Paschi. È partito oggi, il gruppo punta a raccogliere 5 miliardi di euro. Questa prima fase vede la necessità di raccogliere almeno 1,5 miliardi attraverso la complicata conversione delle obbligazioni subordinate in circolazione in azioni. Il titolo è partito malissimo stamattina, di nuovo con un ribasso che è arrivata a toccare il 13%, adesso c'è una fiammata, perde ancora, ma la riduzione è del 5,5%. Poco fa si è appreso che alle 12 che Generali è in corso appunto consiglio di amministrazione per dare il via libera alla conversione delle obbligazioni che ha in portafoglio pari a 400 milioni di euro, quindi evidentemente già questa prospettiva forse è favorevole a Monte dei Paschi, un auspicio anche per tutti gli altri detentori di obbligazioni appunto in portafoglio. Abbiamo appunto un ribasso pesantissimo, come dicevi Simoni, per tutte le altre banche, le banche popolari in particolar modo, la Pop Milano e il Banco Popolare stanno provando a portare avanti la faticosa aggregazione che ogni tanto trova degli ostacoli e oggi i due titoli perdono circa 3 punti, ma le Pop Emilia Romagna, anche Unicredit che è pronta a varare un maxi aumento di capitale, oggi sconta l'incertezza di mercato e perde il 3%. Complessivamente Milano in calo dell'1,3%, molto migliorato in mattinata, è arrivato a perdere 2 punti, in calo tutte le altre piazze europee, Francoforte la peggiore perde lo 0,90%. Il Tesoro ha collocato stamattina 6 miliardi di euro di botta a 6 mesi con il rendimento che è ancora negativo ma è risalito, meno 0,19,90%. Direi che questo, Simone, è intanto il commento sulla giornata fino a questo momento. E grazie Deborah Rosciani, vedremo come evolverà e ovviamente torneremo ad aggiornarvi come sempre alle 13.30 nel consueto appuntamento con i mercati. Veniamo alla campagna referendaria vera e propria, iniziando al fronte del sì. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. Matteo Renzi continua la sua battaglia referendaria legando i suoi destini al voto del 4 dicembre. Se perdo, dice il Premier alla CBS, il problema è per gli italiani perché si sarà persa un'opportunità. Il referendum non cambia la democrazia ma la burocrazia. Per Renzi, in caso di vittoria del no, c'è un rischio di governo tecnico. Incassa il Premier poi anche il sì dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Il governo italiano sta compiendo progressi su riforme strutturali, incluso politiche sul mercato del lavoro, nella pubblica amministrazione e nel sistema scolastico. La riforma costituzionale, dice l'OCSE, sarà un passo avanti nel processo di riforme, rafforzerà la governance politica ed economica. A smussare poi i toni per i mercati arriva il ministro degli esteri Paolo Gentiloni. Nel caso di vittoria del no, dice Gentiloni, avremo un paese più debole e instabile, ma non c'è il rischio di catastrofi e non saremo una minaccia per l'economia europea. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Il fronte del no adesso, Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, fronte del no, e parto da questa notizia, Simone, che attende anche le decisioni della Camera di Consiglio straordinaria della Consulta che si riunirà alle 15.30 per esaminare un ricorso del Codacons. L'Associazione dei Consumatori ritiene che il quesito referendario nella sua formulazione violi la libertà di voto dell'elettore. Sull'aspetto più strettamente politico, la settimana che porta alla consultazione si apre soprattutto sugli scenari che i fautori del no immaginano si possano realizzare di fronte ad una bocciatura del referendum. In numeri parlamentari non cambierebbero, spiega allora Berlusconi. Quindi, se Renzi deciderà di restare, potrà farlo. Certo, fa capire l'ex premier, un percorso logico dopo la vittoria del no sarebbe quello di fare subito una nuova e diversa legge elettorale e poi ridare la parola agli italiani. No al governo tecnico, dice però Salvini, abbiamo già dato con Monti, aggiunge il leader della Lega, si deve andare al voto. Stessa linea dalla Meloni, Fratelli d'Italia, che guarda però al centrodestra e spiega: prima del voto dovremo fare le primarie. Il nostro no è contro l'incertezza legislativa, dice la Camusso. CGIL, Renzi è irresponsabile, si rischia un salto nel vuoto, dice della minoranza PD Speranza. È tutto, linea allo studio. Grazie dunque a Vincenzo Miglietta. Siamo al punto sulla manovra. Rush finale alla Camera per la legge di bilancio. Nel pomeriggio Montecitorio dovrebbe approvare definitivamente la manovra, dopo la fiducia incassata dal governo sui ritocchi fatti in commissione bilancio. Il provvedimento passerà poi all'esame del Senato la prossima settimana, dopo la pausa referendaria. Diversi nodi ancora da sciogliere, dai giochi alla ripartizione dei fondi per gli enti locali, sino alle banche e all'estensione del bonus antisismico dei condomini. Matteo Renzi illustrerà nuovamente nel pomeriggio l'architrave della legge di bilancio in conferenza stampa con il ministro dell'economia Piercarlo Padoan e non esclude la possibilità di correttivi se ce ne sarà bisogno. Pieno appoggio dell'Ocse intanto alle richieste dell'Italia all'UE sulla flessibilità di bilancio. Quanto previsto nella manovra, secondo l'organizzazione, è ampiamente appropriato, posto che i margini disponibili vengano utilizzati per finanziare le politiche che favoriscano una crescita più rapida e sostenibile. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E naturalmente tra le vicende politiche che infiammano la politica c'è cioè l'indagine sui 5 Stelle a Palermo, oggi nuovi interrogatori. Cresce il numero di indagati a Palermo nell'inchiesta sulle firme false utilizzate dal Movimento 5 Stelle per le elezioni amministrative del capoluogo siciliano nel 2012. Ai 10 nomi che già si conoscevano se ne sono aggiunti altri 3. Si tratta di Pietro Salvino, marito della deputata nazionale Claudia Mannino, anche lei indagata, della parlamentare Giulia Di Vita, mentre non è ancora noto il nome del terzo nuovo indagato. Ed è stata proprio Claudia Mannino la prima ad essere interrogata oggi dal procuratore aggiunto Bernardo Petralia. Un colloquio di una decina di minuti. L'esponente del Movimento 5 Stelle si avvalsa della facoltà di non rispondere. Intanto si apprende che nei giorni scorsi il deputato regionale Giorgio Ciaccio, interrogato in gran segreto dai PM di Palermo, ha raccontato ai magistrati in dettaglio cosa è accaduto in quella notte di aprile del 2012, nel corso della quale furono ricopiate centinaia di firme false. Ciaccio, che si era autosospeso dal Movimento, ha confermato il racconto della collega dell'ARS, Claudia La Rocca. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. Andiamo all'estero adesso, iniziando dalla situazione ad Aleppo. Hello, I am Bene. I am 7 years old. I am from Aleppo. Banak si tappa le orecchie per non sentire le bombe, che si nasconde fra l'armadio e il letto o prova a leggere un libro di scuola. Ogni giorno da 2 mesi Bana Alabed, 7 anni, assieme alla mamma Fatema, posta i suoi pensieri su Twitter. Questa notte ci hanno bombardato, non ho più una casa, è l'ultimo tweet. Quando morirò continuate a parlare di quelli che sono vivi qui ad Aleppo. We are suffering. There is no food, no clean water. Bana è diventata uno dei simboli della vita delle migliaia di civili intrappolati nella parte orientale della città, al centro della battaglia fra i ribelli, che la controllano da oltre 2 anni, e le forze governative. E proprio in queste ore i ribelli siriani sembrano aver perso tutti i quartieri settentrionali della loro roccaforte di Aleppo Est, mentre l'esercito di Damasco ha fatto progressi nell'operazione di riconquista dell'intera città. L'avanzata di Damasco ha spinto alla fuga 10.000 civili, secondo l'Osservatorio per i diritti umani siriano. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo a Cuba adesso per la morte di Fidel Castro e l'età, tra l'altro, del fratello Raúl. Chi guiderà il paese? Strade silenziose, spettacoli e alcolici vietati, bandiera a mezz'asta sugli edifici. In questa atmosfera a Cuba, nello scenario simbolico di Plaza de la Revolución a La Habana, fervono i preparativi per rendere omaggio al leader massimo morto a 90 anni. 9 giorni di lutto nazionale fino al 4 dicembre, data dei funerali. Le autorità devono ancora confermare se le ceneri di Fidel Castro saranno esposte su una piattaforma in modo che i cubani possano rendergli omaggio mettendosi in fila. Di certo l'urna con le ceneri di di Castro girerà per l'isola in processione per 4 giorni prima di essere tumulata domenica a Santiago de Cuba. Fidel Castro, leader massimo della rivoluzione che nel 59 rovesciò la dittatura di Fulgencio Batista con la promessa di portare giustizia e uguaglianza nell'isola caraibica, è considerato da alcuni un eroe del socialismo che ha portato a Cuba istruzione e assistenza sanitaria gratuita, ma per molti altri è stato solo un dittatore che ha causato disagi economici alla sua gente e provocato un esodo di cubani verso la Florida alla ricerca di una vita migliore. Ora morto Fidel, cosa cambierà a Cuba? Toccherà a Raúl Castro, che detiene saldamente il potere, il doppio impegno di tutelare l'eredità della rivoluzione senza rinnegarla e di riformare dove è possibile il paese. Negli Stati Uniti intanto il 45esimo presidente Donald Trump, in una lunga telefonata, ha diffidato Obama e Kerry ad andare ai funerali. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Germania adesso, dove ci sono problemi tuttora sulla rete di Deutsche Telekom. Niente televisione, niente telefono, niente internet. Da ieri pomeriggio la rete Deutsche Telekom registra gravissime disfunzioni su tutto il territorio tedesco, ma l'azienda di telecomunicazioni cerca di minimizzare e circoscrivere le notizie che danno mezza Germania paralizzata. Per i media sono state colpite in particolare alcune grandi città come Berlino, Amburgo e Francoforte. Per Deutsche Telekom, che scrive un comunicato sulla sua pagina principale del sito, il numero di clienti coinvolti sta diminuendo. Il network è pienamente operativo e solo alcune linee sono state colpite. Quello su cui si concorda è che da ieri sono in panne circa 900.000 clienti di Deutsche Telekom e sul fronte delle cause, quello su cui si orienta anche la stessa azienda è, come detto da un portavoce, che la Deutsche Telekom è probabilmente vittima di un attacco hacker. Disponiamo dei primi elementi, si legge in un tweet, dopo le analisi compiute dagli esperti della sicurezza informatica dell'azienda. Sul fronte più pratico operativo, secondo i tecnici che hanno lavorato tutta la notte, il problema sono i router e per questa ragione l'azienda chiede a tutti di staccare la spina del router, aspettare un momento e poi reinserirla. Così il guasto dovrebbe essere risolto, ma le indagini sui router della rete Deutsche Telekom e non solo continuano. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Torniamo all'Italia, adesso il dopo alluvione che ha colpito una parte, per fortuna non enorme, della Liguria e sicuramente un pezzo dell'Alessandrino e del Piemonte. Vogliamo andare a Genova, dove sopra il Ferreggiano sono state rose le fondamenta di alcuni palazzi, 200 persone sgomberate che poi sono rientrate nelle loro case. Siamo in linea con Massimo Ferrante, che è presidente del terzo municipio di Genova, Bassa Val Bisagno. Ferrante, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei. Tra l'altro, se non sbaglio, è un architetto lei, no? Non sbaglio, sono un architetto e faccio l'architetto. E fa l'architetto, quindi queste cose, insomma, qualcosa ne sa. Noi abbiamo visto queste immagini che sono, devo dire, abbastanza terrificanti. Abbiamo visto dei palazzi, appunto, dei quali sono visibili le fondamenta in mezzo al fango. Come si fa a far rientrare la gente in questa situazione? Allora, facciamo una premessa. Il palazzo che avete voi visto è frutto della speculazione edilizia a cavallo tra gli anni 50 e 60 che ha colpito la città di Genova, specie nelle zone collinari, quando c'era la forte immigrazione dal sud Italia al famoso triangolo industriale. Sono state costruite nel dopoguerra, soprattutto a cavallo degli anni 50 e 60, una serie di costruzioni sugli alvei dei ri genovesi, perché Genova è una città che offre pochi spazi, non esistono quasi zone in pianura e quindi le poche zone in pianura sappiamo, sono quelle. Cioè, quindi praticamente quello è quello che è successo, è il manuale di come si è costruito male in quegli anni. Okay. Ora, ieri si sono susseguiti tutta una serie di controlli, i controlli da parte di Vigile del Fuoco, Protezione Civile, Ufficio del Comune e anche i tecnici del caseggiato in contraddittorio hanno verificato, grazie a Dio, che i pilastri in realtà sono sani, che la frana comunque non ha toccato la parte strutturale del palazzo e che comunque i pilastri poggiano su una roccia molto solida. Okay. Chiaramente la situazione gli permette di rientrare e noi come amministrazione comunale siamo intervenuti immediatamente su danno, anche se l'incarico è dei privati, ma proprio per la sensibilità, per la pericolosità della zona siamo intervenuti immediatamente. Da stanotte stanno lavorando le ruspe sul Ferreggiano e sull'aria. Altro discorso invece è consolidarlo quel fabbricato, perché in ogni caso eventuali altri smottamenti o eventuali altre situazioni meteorologiche potrebbero invece mettere in serio pericolo. Io immagino che le persone abbiano anche paura a rientrare in un palazzo di quel genere, mi scusi. Immagina molto bene, ma purtroppo parliamo anche di situazioni dove c'è anche un disagio sociale e quindi per molte persone è anche difficile immaginare altri scenari. Le posso garantire che molte di queste persone in realtà al momento sono ancora da parenti o da amici. Mi rendo conto della paura, però diciamo che se il palazzo viene consolidato in maniera corretta e i lavori vengono fatti in maniera corretta, si può rientrare in sicurezza. Altro discorso invece sarà ragionare a Genova come in altre realtà italiane invece sull'edilizia tutto popolare il tema, degli anni 50, sì, certo. 60, il tema di come queste possono convivere con situazioni idrogeologiche come il Rio Ferreggiano. Rischiose come il Ferreggiano, certamente. La ringrazio, grazie a Massimo Ferrante per essere stato con noi, presidente del terzo municipio Bassa Val Bisagno. E in qualche modo rimaniamo a Genova, perché è Genova il centro della scena calcistica in questo momento, Dario Ricci, no? Eh sì, quella che sicuramente, e fortunatamente solo questa, è franata a Genova è la Juventus, no? La Juventus capolista, che ha subito una brutta battuta d'arresto, che è il caso del giorno, nel senso che parliamo sempre della squadra che guida il campionato con 4 punti di vantaggio, è a un passo dal primo posto nel girone di Champions League, quindi i risultati ci sono, ma manca quello che finora era stato l'imprinting della Juventus prima di Conte e poi di Allegri, cioè il gioco e insieme al gioco quella fisicità prorompente che altre Juventus recentissime avevano e questa invece sembra non avere. E a proposito di fisicità, si allunga l'elenco degli infortunati eccellenti anche nella lunghezza del periodo d'assenza. Basti pensare ieri l'infortunio, la frattura del perone sinistro di Dani Alves, finora certo non tra i più positivi tra i nuovi acquisti, tutti abbastanza discussi, però comunque è un giocatore di esperienza e di qualità che starà fuori per 3 mesi e poi soprattutto altri 2 mesi per una distrazione muscolare, l'assenza di Leonardo Bonucci. Tutto questo, e vado a chiudere, Simone, in un momento chiave della stagione, perché la Juventus nelle prossime 3 giornate di campionato affronta Atalanta, la splendida Atalanta di Gasperini, l'altrettanto bel Torino nel derby di Mihajlovic e poi alla 17ª giornata ci giochiamo il nostro derby, io contro di te, Juventus-Roma. E anche la Roma stessa affronta Lazio, il derby Vuldertu della capitale, lo anticipi, Milan nella stessa Juventus, lo stesso Milan incrocia Roma e Atalanta, insomma ci aspettano 3 settimane di fuoco e poi la Supercoppa il 23 dicembre, chissà, vedremo che regalo di Natale ci farà Juventus-Milan. Allora, grazie al nostro Dario Ricci, ovviamente di tutto questo torneremo a parlare in tutti i convocati a partire dalle 14, noi adesso ci fermiamo, c'è il traffico e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia e lo iniziamo dal Veneto, dove una USL ha deciso di... era un po' in carenza di infermieri e quindi ha deciso di procedere per sorteggio, una cosa che ci è parsa piuttosto strana, ne parliamo tra poco. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Effetto Giorno. Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dell'andamento dei mercati con il calo pesante per le banche, abbiamo parlato dell'inchiesta sulle firme false a Palermo che riguarda i 5 Stelle, abbiamo parlato di Deutsche Telekom e del blocco di una parte della rete e abbiamo parlato di Aleppo. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e lo iniziamo dal Veneto e da Castelfranco per essere esatti, dove la USL o ULSS, adesso non lo so più con queste sigle, o la ASL o quello che vi pare, insomma l'azienda sanitaria locale che gestisce la sanità nella zona ha deciso di prendere una serie di infermieri a partire da dicembre perché era in emergenza e ha deciso di farlo col metodo del sorteggio. Capirete che la cosa ci è parsa piuttosto curiosa. Abbiamo in linea Francesco Benazzi, che è il direttore generale dell'azienda ULSS 9, ma è anche commissario della ULSS 8, che è quella che ha deciso per il sorteggio. Benazzi, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno e un saluto anche ai suoi radioascoltatori. Eccoci qua, ma come mai sorteggiate? Ma come sorteggiate? Non dovete scegliere per merito, per capacità? Allora, noi eravamo in una situazione di estrema urgenza legata al fatto che per gravidanze, malattie, passaggi in altre aziende autorizzate ovviamente del personale infermieristico, avevamo difficoltà ovviamente a garantire un'assistenza adeguata alle persone, ai nostri assistiti ricoverati in ospedale. Chiaramente noi abbiamo e stiamo sviluppando con le valutazioni di titoli una graduatoria che sarà fatto ovviamente seguendo i titoli, però avendo questa urgenza, il meccanismo più semplice che comunque è un meccanismo che dura un mese, non di più, perché poi da gennaio noi avremo la graduatoria, andremo in un ordine logico. Abbiamo chiesto, sorteggiando, perché non avevamo nessun altro tipo di possibilità, di poter utilizzare per un mese esatto, il personale. Quindi è solo una cosa di un mese, in sostanza. È una cosa di un solo mese, intanto che la graduatoria, lei sa che per la valutazione dei titoli non è semplice, poi ci deve seguire una prova orale, quindi... Voglio dire, non è i concorsi pubblici, giustamente, hanno un periodo di durata di 6 mesi, di 5 mesi. Quindi dovevamo per forza, visto l'urgenza, non si riusciva più a sopperire in nessun altro modo. Siamo andati in cerca in graduatorie di altre ed erano tutte esaurite, per cui l'unica strada rimaneva questa per garantire... Tecnicamente lo potete fare, dal punto di vista legale è possibile una cosa di questo genere per un ente pubblico come voi? Sì, perché è una situazione di emergenza, di urgenza. Noi dobbiamo garantire agli assistiti, chiaramente... il servizio, e quindi altrimenti sarebbe un'interruzione di pubblico servizio, per cui noi abbiamo fatto Benazzi, questo. Mi scusi, come lo fate il sorteggio? Cos'è una cosa con le palline come quella del lotto? Come funziona? Numeri, noi per ogni, chiaramente le persone ogni persona viene dato un numero, poi i numeri vengono messi all'interno dell'urna e vengono pescati i numeri, il capo del personale fa questa operazione. Così funziona. La ringrazio, grazie a Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda ULSS9, non ci si può fare niente con queste sigle. La ringrazio per essere stato con noi. Il nostro giro per l'Italia ci porta adesso a Napoli. La storia viene riportata oggi dal quotidiano La Repubblica, che racconta di una polemica su questo tema che riguarda il fatto che sono stati comprati degli autobus, solamente che non sono degli autobus nuovi e non sono nemmeno degli autobus poco usati, sono degli autobus che arrivano dalla Polonia, che li dismette perché sono troppo vecchi, hanno 600.000 chilometri a cranio ad autobus e hanno 7 anni di vita. Abbiamo Umberto De Gregorio, che è il presidente dell'EAV, che è appunto l'azienda dei trasporti che si è occupata di queste acquisizioni. De Gregorio, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, c'è stata un po' di polemica su questa vicenda, perché insomma il concetto è un po': vi comprate gli scarti della Polonia a fronte di un'età media di autobus che in Europa è piuttosto bassa e comunque insomma intorno a quella cifra, intorno ai 7 anni, voi ve li prendete? Noi abbiamo, io personalmente sono alla guida dell'EAV da 18 mesi, ho trovato 88 autobus in circolazione, per fare un servizio decente me ne servono 250. Ho la possibilità di sfruttare un canale di finanziamento con i fondi PAC, che danno appunto la possibilità di acquistare soltanto mezzi usati oppure per revampizzare mezzi. Questi mi sembrano parecchio usati però, De Gregorio, no? Questi sono dei mezzi che sono in perfette condizioni, hanno altri 6 anni di vita, li abbiamo pagati 50.000 euro cada uno contro un costo a nuovo di 180.000 euro. Ma ripeto, il tema è meglio usati o meglio niente? Mi risponde, qualcuno mi risponde, perché De Gregorio, è anche vero che le dureranno di meno questi mezzi, nel senso che se uno se lo compra nuovo, dura un po' di più. Se potessi comprare nuovo, avessi fondi per comprarli nuovi, no? Secondo lei io non li compro nuovi. Questa domanda non deve rivolgerla a me, perché è un'azienda che io ho ereditato fallita. Sì. Che si salva dal fallimento in questi giorni, ma nessuno ne parla, parlano dei mezzi usati, grazie a un forte intervento del governo nazionale e del governo regionale guidato da Vincenzo De Luca, che ha sbloccato dei fondi che erano stati stanziati nel lontano 2013 e non erano mai arrivati a destinazione. Vogliamo dare al sud un servizio di trasporto adeguato? Oppure vogliamo continuare a fare polemiche? Io preferisco avere dei mezzi usati che non avere mezzi. Che non avere mezzi in assoluto, dice lei. Tra l'altro, appunto, un'azienda ha 700 milioni di debiti, o mi sbaglio? Esattamente, è un'azienda che è in queste condizioni. Quindi se lei mi dice ma perché non le ha comprati nuovi, io le dico perché non ho i soldi, mi pare evidente, no? È certo. Vabbè, vedremo un attimo, vedremo quanto le dureranno, De Gregorio, perché poi appunto uno fa un investimento di questo tipo, vedremo quanto dureranno questi autobus. La ringrazio, grazie Umberto De Gregorio. ancora Presidente Leav per essere stato con noi. Oggi, come sapete, andiamo un po' più rapidi sulle cose perché è una giornata particolare, quella del lunedì, una giornata nella quale c'è in anticipo il nostro Mario Platero e poi l'ultimo quarto d'ora dalle 13.45 alle 14, come sempre con autotrasporti. Però avremo il tempo, credo, di parlare con il Vice Sindaco di Trieste per questo nuovo regolamento di Polizia Municipale che promette bastonate anche a chi dà i soldi a chi chiede l'elemosina. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Ai microfoni sempre Simone Spezia. I nostri titoli: rischi per Ottobanche con il no al referendum, scrive il Financial Times. Oggi molto pesante Monte dei Paschi, che adesso recupera qualcosa, perde il 5,9% comunque. Firme false, nuovi indagati nei 5 Stelle, e c'è un'altra parlamentare, la deputata Mannino sceglie di non rispondere ai magistrati. In panne una parte della rete di Deutsche Telekom, giù internet e cellulari per centinaia di migliaia a Berlino, Amburgo e Francoforte. In Siria i soldati di Assad controllerebbero gran parte dei quartieri est della città, quasi 10.000 i civili fuggiti da quelle aree di Aleppo. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Nel nostro giro per l'Italia eccoci a Trieste per parlare di questo regolamento di Polizia Municipale in arrivo e che riguarda come sempre vari argomenti. Abbiamo in linea il Vice Sindaco Pierpaolo Roberti. Buongiorno Vice Sindaco, buongiorno. Benvenuto. Buongiorno a tutti i telespettatori. Tra le altre cose si prevedono multe anche per chi dà l'elemosina alle persone, ho capito bene? Sì, certo, abbiamo previsto anche delle multe per chi dà l'elemosina, perché l'obiettivo chiaramente è andare a colpire un racket che c'è dietro ai professionisti dell'elemosina e che è presente purtroppo anche a Trieste. E quindi, non lo so, se c'è un poveraccio, io passo, gli do un euro, fino a quanto rischio? Guardi, purtroppo o per fortuna i poveracci non stanno in strada a chiedere la carità. I poveracci hanno una rete d'assistenza composta su questo potremmo discutere, insomma, però no, guardi, ci sono anche dei poveracci che chiedono l'elemosina. No, ma certo, ma guardi, io le rispondo con delle parole che sono state pronunciate oggi, delle dichiarazioni del direttore della Caritas diocesana di Trieste, che penso ne sappia più di tutti in merito al sostegno ai poveri e alla povertà. E dice che fa scalpore certamente il divieto di dare l'elemosina, ma su questo, con tutti i distinguo del caso, sono d'accordo. Si dicono d'accordo perché è evidente che un certo racket c'è dietro e va ostacolato in ogni modo. Quindi loro dicono: non siamo tanto contrari all'idea di proibire l'elemosina quanto alla previsione di una sanzione amministrativa. Detto questo, è chiaro che mentre la Chiesa fa il suo compito e ha la possibilità di educare, informare, parlare con i cittadini in chiesa durante una media, l'amministrazione comunale fa altro, fa provvedimenti amministrativi. Senta, tra l'altro, ci sono multe anche per chi la chiede l'elemosina? Sì, è prevista una sanzione amministrativa anche per chi chiede l'elemosina. E come la pagano, però? C'è la previsione della sanzione accessoria, ovvero il sequestro di quanto è frutto dell'illecito. Quindi, e quindi i soldi che hanno raccolto. Senta, esatto. E non si può nemmeno bere nei giardini pubblici? Cioè, io mi porto una birra, me la posso bere nel giardino pubblico? Guardi, questo era già in parte previsto nel precedente regolamento, nel regolamento per l'utilizzo dei giardini pubblici. Veniva previsto il divieto di fumo e di assunzione di bevande alcoliche soltanto all'interno delle aree giochi dei giardini. Quindi nel piccolo. Quindi solo in quelle aree, cioè non è esteso adesso a tutti i giardini. Adesso lo estendiamo a tutto il giardino, e questo ha due aspetti. Dalla parte del fumo è un aspetto puramente educativo, perché i giardini sono frequentati prevalentemente dai bambini, quindi per un aspetto educativo. Dall'altro, perché purtroppo abbiamo assistito qua a Trieste a un fenomeno preoccupante, che è quello dei balordi tossici che frequentano i giardini, stanno tutto il giorno nei giardini a bere birra tutto il giorno, e ovviamente si appropriano del giardino, perché in un giardino del genere la famiglia non porta i propri bambini a giocare. Vabbè, io non dubito che torneremo a parlarne di questa vicenda poi, quando arriverà anche in fase di approvazione, in fase definitiva. Grazie intanto a Pierpaolo Roberti, Vice Sindaco di Trieste. Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.